Con noi Valerio Gatto Bonanni e Guido Bertorelli per parlare di altri mondi bike tour al Teatro Tordinona a Roma dal 13 al 18 febbraio. Ben ritrovati. Ciao, ciao Fede, ciao a Ciao, tutti. ciao. Allora, ci alterneremo nelle domande e nelle risposte. Parliamo intanto, presentiamo lo spettacolo. E cos'è questo Altri Mondi Bike Tour? Allora, Altri Mondi Bike Tour è una divulgazione scientifica giocosa che parla come temi dell'intelligenza delle piante, società degli animali, ipotesi di vita su altri pianeti, dando anche uno sguardo sulla sostenibilità ambientale e su quanto è piccolo l'uomo. Esatto, e di un sacco di altra roba poi. In realtà questi sono i temi ufficiali, ma poi noi le indaghiamo in una maniera molto. È uno spettacolo enciclopedico, praticamente. Senti, bike perché c'è anche un peso importante della bicicletta. Esatto, allora noi lo spettacolo l'estate lo portiamo in giro in bicicletta, quindi facciamo delle tournée teatrali in bici, dove nell'estate 2017 abbiamo fatto due tournée pedalando 800 km e facendo 8 spettacoli, e quest'estate ne faremo altrettanti, se non di più, dato che stiamo organizzando i bike tour estivi. E sicuramente la bici, poi, una volta visto lo spettacolo, fa parte anche tematicamente appunto, di un altro mondo, un altro modo di viversi e di mobilità. Oltre che far parte anche scenograficamente dello spettacolo, perché alla fine La usiamo in sono scena. proprio le nostre scenografie, Esatto. le bicicletta. Allora, quante persone siete a far parte di questo progetto? E poi anche volevo chiedervi se si sta modificando nel corso del tempo. Allora, in scena siamo io e Guido, e poi per un periodo ci ha seguito Mauro Milone. È stato anche un coautore dello spettacolo. Esatto, perché è una scrittura collettiva, Sì. quindi l'idea, la regia è la mia. Però appunto poi è stato scritto insieme. E poi le scenografie sono di Marco Guerrera, Camila ha curato l'organizzazione. Insomma, diciamo che questo spettacolo in realtà, lo possiamo dire agli amici di Radio Onda Rossa, nasce praticamente al Valle. Al Teatro Valle L'ideazione è Occupato. nata lì, la voglia di andare in giro, di portare in giro in bici uno spettacolo teatrale nasce al Valle, insomma. E poi diceva come è cambiato. Diciamo che la versione integrale che avevamo fatto all'inizio comprendeva anche, oltre a essere in tre in scena invece che in due, come siamo adesso, ma comprendeva anche delle biciclette collegate con degli accumulatori. Noi prendevamo proprio gente dal pubblico a pedalare durante lo spettacolo per caricare questa batteria che poi ci serviva per alimentare le luci e la fonica dello spettacolo poi del turno dopo, cioè dello spettacolo dopo. E adesso questa cosa non c'è più, anche per alleggerirci un po' e per rendere lo spettacolo più trasportabile. Sì, diciamo questa versione è la versione quella hard che portiamo solo nei teatri dove ci sono dei cachet sostanziosi, se no noi abbiamo scelto anche una versione più soft, più leggera per poter girare solo in bici e treno. Però a livello di testo in realtà noi ci aggiorniamo molto e quindi aggiungiamo nuove battute, aggiungiamo nuove storie, aggiungiamo nuovi dati iperscientifici, e quindi in realtà è un'evoluzione continua lo spettacolo. Correggiamo se c'è da correggerci. Esatto. Oh, immagino che non siano solo i teatri i luoghi di rappresentazione, ma anche spazi all'aperto. Spazi all'aperto, e ho anche, per esempio, oggi abbiamo fatto spettacolo a Crema, perché c'era un insieme di associazioni del terzo settore che hanno fatto una scuola di pace per i licei, e il tema di quest'anno è fare pace con la terra. Quindi noi abbiamo fatto spettacolo nella sala del comune affrescata, una sorta di Cappella Sistina cremasca, bellissima, con un'acustica terribile però. E l'abbiamo fatto per gli istituti tecnici e i licei professionali. Quindi andiamo anche nelle scuole, l'abbiamo fatto nelle aziende agricole, lo facciamo durante le conferenze dei professori di diritto, lo facciamo nei teatri chiaramente, lo abbiamo fatto nelle piazze. Siamo multiversatili. Per la costruzione del testo avete fatto riferimento adatto a lavori specifici? Allora, per la costruzione del testo, cioè, siccome abbiamo letto, sono più o meno l'ideazione di 5 anni fa. In Sì. questi 5 anni abbiamo studiato molto, molto, molto, molto tra libri, film, fumetti, Cartoni animati. cartoni animati, siti, articoli. Diciamo, la lista completa delle nostre fonti sta sul sito Altri Mondi Bike Tour nella sezione spettacolo. Quindi, insomma, abbiamo studiato parecchio. Sicuramente ci ha molto ispirato George Carlin, il comico americano, e ne citiamo un pezzo di dialogo, dove tra l'altro, non so se ti ricordi, Fede, ma quando c'è stata la festa al Cinema Palazzo, Certo, certo. l'ho fatto quasi integrale, quel monologo. E poi, insomma, è tantissima la roba. Per esempio, io il primo anno, la prima, quando avevo letto Guida Galattica per autostoppisti, mi ero molto illuminato e l'ho ampiamente pensato quel testo. Anche Poi un libro che si chiama Il libro dell'ignoranza. Di cui poi ci sono varie versioni, il libro dell'ignoranza sugli animali, il secondo libro dell'ignoranza, che è scritto da due ricercatori della BBC. Praticamente sono dei libri di domande che possono essere appunto da dove crescono le banane, insomma, domande che uno pensa di saper rispondere, e invece le risposte sono assurde, inaspettate, molto affascinanti, che ci ha fatto anche un po' venire, no, in mente l'idea di sorprendere le persone con queste cose. allora, in chiusura i riferimenti al sito li avete dati? Ce ne sono altri sul web? Ci sono pagine Facebook? Allora, c'è la pagina Facebook Altri Mondi Bike Tour tutto staccato, c'è il canale YouTube di Semivolanti tutto attaccato della compagnia teatrale che produce lo spettacolo, la mia compagnia, c'è appunto il sito Altri Mondi Bike Tour e poi appunto sul Teatro Tor di Nona conviene prenotare perché il teatro, lo spazio è piccolo, quindi comunque già ci sono un sacco di prenotazioni, quindi conviene prenotare. Affrettatevi. Allora, salutiamo Valerio Gatto Bonanni e Guido Bertorelli che saranno in scena con Altri Mondi Bike Tour al Teatro Tor di Nona a Roma dal 13 al 18 febbraio. Un abbraccio a tutti e due e a presto. Ciao, grande abbraccio, ciao Fede. Ciao. Con Alessandro Maggi per parlare dello spettacolo Vincent van Gogh al Teatro Eliseo qui a Roma dal 13 febbraio al 4 marzo, di Stefano Massini per la regia appunto di Alessandro Maggi. Alessandro, benvenuto. Grazie, buonasera a voi. Allora, intanto raccontiamo lo spettacolo in breve. Ma lo spettacolo narra di uno degli ultimi momenti della vita di Vincent van Gogh, precisamente quando fu, diciamo, recluso nel nosocomio, nel manicomio di Saint-Paul-de-Mausole a Saint-Rémy. E diciamo che Massini, direi anche genialmente, ci presenta un Van Gogh che ha un problema enorme, straordinario, quello di non riuscire più a concepire, a vedere, idealizzare e realizzare le opere attraverso il colore, un elemento che nella pittura di Van Gogh è assolutamente prioritario. E da lì nasce, diciamo, tutto il dramma dell'artista, e Massini e il nostro spettacolo in particolar modo analizza teatralmente il processo di creazione artistica, ponendo, diciamo, le basi per poi arrivare ad una sentenza in qualche modo che produca un'evoluzione successiva, e cioè sostanzialmente il fatto che l'artista nel suo processo di creazione ha una parte, diciamo, della sua vita e della sua attività che è sostanzialmente legata a un vero e proprio concetto di mistero al quale nessuno può avere accesso. E già in parte lo hai anticipato, volevo chiederti del testo di uno dei più prolifici e notevoli drammaturghi in circolazione, di Stefano Massini. Ecco, cosa ne pensi delle sue qualità di scrittura per questo lavoro in particolare e anche più in generale? Ma io penso in generale che Stefano Massini abbia davvero una qualità fondamentale, che è quella di essere un uomo di teatro. in quanto uomo di teatro ne capisce i meccanismi e quindi è in grado di creare, e adesso sto scendendo nel particolare, cioè nel testo che abbiamo usato noi, è in grado, diciamo, di creare un'aspettativa continua nello spettatore, ed è un'aspettativa che io ebbi già alla prima lettura del testo, per cui il testo di Mazzini si costruisce attraverso una serie di colpi di scena annunciati e mai realizzati fino in fondo, ma questa non realizzazione fino in fondo ne produce altri di attese, e queste attese poi alla fine non vogliono naturalmente svelare nulla, ma inesorabilmente conducono verso un momento che necessariamente deve essere un momento altissimo dal punto di vista teatrale, anche quindi con un colpo di scena di sostanza, un effetto risolutivo molto grande. Non lo so, gli spettatori naturalmente che devono venire a vedere lo spettacolo lo vedranno, ma certo Mazzini ha certamente l'astuzia, la sagacia e l'intelligenza nella costruzione delle drammaturgie in questo senso. Oh, Alessandro, come hai pensato la messa in scena e anche come ti sei relazionato, se vi siete poi confrontati con Stefano? Dunque, diciamo che c'è stato un primo momento di condivisione, soprattutto di quelle che erano le istanze preliminari del testo. In realtà poi Mazzini ha lasciato estrema libertà nello sviluppo del lavoro, tra le altre cose è venuto recentemente a vedere il nostro spettacolo manifestando grande gioia e dichiarandosi veramente molto contento, soprattutto per il rigore della messa in scena e soprattutto anche per i concetti che sono stati espressi attraverso lo spettacolo stesso. Durante il lavoro devo anche sottolineare il fatto che c'è stata questa condivisione di concetti, di lavoro, di prove, con Alessandro Preziosi, che è il protagonista di questo spettacolo, ed è un attore, oltre che un amico, ma proprio un attore col quale io trovo sempre molto bello lavorare, perché è di una generosità veramente rara e è sempre pronto a mettersi in gioco, e sicuramente in questo spettacolo lo ha fatto. Senti, per quanto riguarda questo spettacolo in particolare, si tratta di una prima, ci sono anche altre tappe già fissate? Beh, la tournée è cominciata ormai da un po', perché abbiamo debuttato a Fermo, mi pare, il 20 o 21 di gennaio, e questa è una tournée molto lunga rispetto a quella che è, diciamo, la caratteristica delle tournée ormai delle compagnie, anche dei teatri importanti. Ormai le compagnie girano poco, ma questo spettacolo girerà fino alla fine di aprile sostanzialmente, ha già toccato delle città importanti. Adesso siamo stati a Firenze, siamo stati a Trieste, siamo stati a Mestre, adesso arriveremo a Roma e poi toccherà naturalmente le altre città importanti, e già si pensa addirittura a una ripresa successiva nella prossima stagione. Quindi è una tournée veramente lunga rispetto alla media. Abbiamo parlato del testo, ora parliamo dell'artista. E cosa ami di Vincent van Gogh? Innanzitutto amo il fatto che la sua vicenda umana è collegata completamente alla sua vicenda artistica. La sua vita sembra la vita di un uomo che tenta in ogni determinato segmento temporale della sua esistenza di realizzare un'impresa. L'impresa, diciamo, professionale nel primo periodo, ma ancora prima direi l'impresa del suo percorso di studio. L'impresa poi successiva, come dire, il suo avvicinamento alla religione e poi l'arte, e sono tutte vicende che in qualche modo si concludono con un tormento che nasce nel momento stesso in cui lui tenta di approcciarsi a una di queste. E certo, diciamo che il suo migliore talento l'ha scoperto durante la sua esistenza quando si è messo a dipingere, ma certo la sua vita ci fa davvero capire che esiste un lato dell'artista che è assolutamente sconosciuto a chiunque voglia avvicinarsi a lui, e rimarrà sempre soltanto dentro lui stesso. E questo è l'aspetto che mi ha sempre affascinato, al di là delle sue opere, che ovviamente, certo, mi sono messo a studiarle nozionisticamente, ma io non sono un critico e uno storico dell'arte, quindi ne posso essere abbagliato dal punto di vista emozionale oppure dal punto di vista analitico. Tuttavia, quello che mi ha sempre colpito è il fatto che nella sua arte, che in fondo, se ci pensiamo, è sempre un atto di, come posso dire, è un atto egoistico, assolutamente egoistico, che paradossalmente produce un miglioramento del mondo che poi vi partecipa guardandole, godendone. E se ci pensiamo, questo è un lato veramente paradossale dell'arte, ma che al tempo stesso ci comunica una solitudine assoluta all'interno di questo mistero. Alessandro, in conclusione, ci lasci riferimenti web, se c'è una pagina Facebook, un sito internet per il lavoro e per la tua opera in generale? Ma io sono abbastanza, diciamo, lontano dai meccanismi web e social, anche se mi ci sto avvicinando, nel senso che, per esempio, ho aperto recentemente un profilo Facebook e un profilo Instagram. Mi piace ogni tanto postare qualche commento, qualche foto, qualche recensione degli spettacoli. E diciamo che in questo momento mi sto limitando a questo, anche se mi spingono a, come dire, rendermi più visibile anche sotto questo profilo. Ma diciamo che ci arriverò piano piano. Bene. Allora ricordiamo Vincent van Gogh al Teatro Eliseo a Roma dal 13 febbraio al 4 marzo, opera di Stefano Massini per la regia di Alessandro Maggi. Alessandro, un ringraziamento, un abbraccio e ci si vede a teatro. Grazie, grazie a voi, buona serata. Con Giorgina P, che firma la regia dello spettacolo Settimo Cielo di Caryl Churchill dal 14 al 25 febbraio a Roma al Teatro India. Intanto, Giorgina, ben ritrovata. Ciao, buongiorno, ben Bu trovato. buongiorno. Per chi ci ascolta, diamo subito qualche indicazione. Presentiamo questo Settimo Cielo. Sì, allora, Settimo Cielo è uno dei capolavori di questa straordinaria drammaturga inglese che è Caryl Churchill, considerata un mito, un pilastro della scrittura teatrale in Inghilterra e in molti altri paesi, ma misteriosamente poco conosciuta in Italia, direi quasi sconosciuta. Settimo Cielo è uno dei testi che ci ha appassionato, uso questo plurale perché io faccio parte del collettivo dell'Angelo Mai e in particolare del collettivo Blue Motion, e con questo gruppo di persone da qualche anno ormai stiamo curando un progetto intorno a questa autrice. Settimo Cielo in particolare è un testo del 1979 ed è un viaggio proprio tra le politiche del sesso, argomento che in quel momento interessava molto a Caryl Churchill e alla compagnia Joint Stock con cui lavorava. E vive di un paradosso questo testo, nel senso che ha due ambientazioni completamente diverse che cambiano dal primo al secondo atto. Il primo atto è ambientato nell'Africa coloniale, dove c'è questa famiglia di coloni inglese che si trasferisce in Africa e diciamo che vive le anomalie del rapporto del colonialismo attraverso dei segni scenici che ci indica l'autrice, vale a dire alcuni personaggi maschili sono interpretati da donne e viceversa, neri da bianchi, una bambina interpretata da una bambola, e tutto questo perché l'autrice tende continuamente a sottolineare il parallelo tra oppressione coloniale e sessuale. Diciamo ciò che Genet chiamava la mentalità coloniale o femminile della repressione interiorizzata. Nel secondo atto, questa stessa famiglia invece si ritrova a Londra un secolo dopo, quindi nel 1979, ma per loro sono passati solo 25 anni. Questo, diciamo, è fondamentalmente il nucleo della storia. Sì. In mezzo a questo, insomma, accadono moltissime cose. Sì. Quali sono le qualità della scrittura di Caryl Churchill che più vi hanno convinto e poi su cosa avete puntato rispetto alla messa in scena? Allora, diciamo, le qualità della scrittura. A questa straordinaria autrice che giustamente in Inghilterra è stata definita la madre delle reinvenzioni, Sì. ha come sua peculiarità il fatto di riuscire all'interno di margini di, come dire, di continuo antinaturalismo a scrivere testi uno diverso dall'altro, a livello di strutture linguistiche, a livello proprio di strutture narrative, di costruzioni e invenzioni teatrali. E tutto questo non resta mai un gioco, come dire, finalizzato esclusivamente alla macchina teatrale, ma diventa sempre un gioco per esprimere forti denunce legate al presente. È un'autrice fortemente politicizzata. Una cosa che io amo molto di lei è che a un certo punto, delusa dai continui fraintendimenti della stampa rispetto alle interviste che lei rilasciava e soprattutto rispetto ai contenuti che lei ogni volta raccontava sulle sue prese di posizione molto nette sul presente, oramai da 25 anni non rilascia più nessuna intervista pubblica, va solo in teatro e si esprime attraverso l'adesione a progetti politici o al sostegno per luoghi e situazioni del presente che ne hanno bisogno. Dunque la sua peculiarità è in qualche modo la capacità di essere geniale nella scrittura teatrale e contemporaneamente nella sua presenza, nella sua presa di posizione politica nel mondo, e questa, diciamo, è sicuramente la cosa che più ci ha appassionato. Allora, una produzione articolata in una tenitura di una decina di giorni al Teatro India, poi che succederà? Che cosa succederà? Allora, intanto ci auguriamo che questo spettacolo possa vivere un futuro e vedere l'anno prossimo, insomma, i palchi di altre città. Ma al di là di questo, sicuramente andrà avanti questo progetto curato da noi insieme a Paola Bono, che si chiama Non Normale Non Rassicurante, e che continuerà a vederci impegnati nella diffusione delle opere di questa autrice. Settimo Cielo, noi speriamo molto che possa andare avanti e soprattutto ci auguriamo di riuscire a organizzare nelle città in cui andremo, come abbiamo fatto a Roma, degli incontri legati non esclusivamente all'autrice ma proprio al tema riattualizzato delle politiche del sesso oggi, che mi sembra, come dire, un argomento abbastanza stridente rispetto a molte cose che stanno capitando, e soprattutto nello specifico di Settimo Cielo, questa straordinaria capacità di intersezione di Caryl Churchill delle questioni razziali, sessuali o più in generale delle ingiustizie di classe, credo che sia un tema che abbia molta necessità di essere ridiscusso in termini artistici e non. Bene. Giorgina, ci lasci tutti i riferimenti web per seguirvi e saperne di più? Allora, assolutamente. Per seguirci in generale, noi abbiamo sia una pagina Facebook dell'Angelo Mai che di Blue Motion, e poi per il resto c'è il sito dell'Angelo Mai, il sito del Teatro di Roma sarà certamente aggiornato sulle vicende di Settimo Cielo, e poi veniteci a vedere a teatro o più in generale, insomma, leggete questa autrice che è veramente straordinaria. Allora, ricordiamo Settimo Cielo di Caryl Churchill dal 14 al 25 febbraio al Teatro India a Roma. Giorgina, un abbraccio, ci si vede a teatro. Un abbraccio enorme a te. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Con Elena Arvigo, che cura la regia ed è interprete insieme a Caterina Gramaglia dello spettacolo L'imperatore della sconfitta di Jon Fabre, che sarà al Teatro Brancaccino dal 15 al 18 di febbraio qui a Roma. Allora, intanto Elena, ben ritrovata. Grazie, grazie, anch'io sono contenta di ritrovarti. Raccontiamo brevemente quest'imperatore della sconfitta? Sì, il titolo è già molto ingombrante, devo dire. Allora, l'imperatore della sconfitta. In inglese, The Emperor of Lost. Quindi diciamo che ci tengo a dirlo perché non tutte, insomma, la traduzione è sempre un po' una questione interessante, importante. In questo caso va detto che l'accezione di perdita è diversa rispetto a quella di sconfitta. Uno può aver perso ma non essere sconfitto, no? Sì. Però in italiano The Emperor of Lost, cioè l'imperatore della perdita, sembra veramente un po' Super Mario che si aggiusta tutti i rubinetti, per cui, cioè, non era possibile il grande idraulico. Sono a volte le traduzioni non sono proprio possibili. Guarda, è un testo scritto nel 94 da Fabre, dedicato a un attore, a un uomo, e parla, diciamo, della possibilità, cioè di come ogni perdita, di come ogni volta che si perde ci sia proprio sia

storia che noi consideriamo una storia di tutti. È singolare questo nel momento in cui si apre anche la possibilità di portare questa storia all'estero, perché la novità adesso è che una casa editrice francese, l'Edition Timbuktu, ha realizzato una traduzione francese in una prima tiratura limitata e che adesso, lanciando questo crowdfunding, vorrebbe poi estendere con una tiratura più ampia, sia in italiano che in francese. La cosa di cui siamo molto contenti è che per la prima volta il racconto del fiume rubato portato in teatro e poi anche fuori dai teatri Andrea Pierticca e il libro si ricongiungono in un'opera, diciamo, definitiva, che comprende, che tra l'altro è anche nuova, perché per quanto riguarda il video si tratta di una registrazione inedita, per quanto riguarda il libro si tratta di una nuova riscrittura ampliata, anche perché molti aneddoti che erano rimasti fuori dalla prima edizione, perché mi sono arrivati da incontri che ho fatto dopo che il libro era già andato in stampa, ho avuto modo di reintegrarli nel racconto, quindi penso che veramente quello che siamo riusciti a realizzare questa volta sia il racconto definitivo della storia della lotta della Valmorbida contro l'acne di Ceggio. Senti, ecco, la vicenda della Valmorbida e dell'Acna di Cengio, cosa ha significato a livello ambientale? Beh, ha significato la devastazione di un fiume per oltre 100 chilometri. Dei 100 chilometri a valle di Cengio non era possibile nessun tipo di coltivazione. Tutti i vigneti sono stati estirpati, tra l'altro vigneti di un dolcetto che oggi definiremmo pregiato. E soprattutto la cosa incredibile di questa storia è la sua durata nel tempo, cioè è una lotta durata di generazione in generazione. Fabrice Nicolino di Charlie Hebdo, quando gli è arrivato il libro in redazione, ha telefonato a Patricia Dao, che è l'editore, e ha chiesto: ma veramente questa storia è successa davvero? Cioè veramente per 117 anni una popolazione ha lottato per il suo fiume, per l'ambiente. Questa è la cosa che lascia veramente di stucco. Senti Alessandro, ci dai tutti i riferimenti per questa campagna di crowdfunding? Sì, è possibile partecipare prenotando una copia del libro DVD che verrà recapitata appunto se la campagna avrà successo. È sufficiente digitare su Google il fiume rubato crowdfunding e verrete indirizzati al sito, che è bilingue italiano e francese, sulla piattaforma Kiss Kiss Bank Bank, cui avrete la possibilità semplicemente di lasciare un contributo simbolico, di prenotare una copia in italiano, una copia in francese o anche più di una, o anche di regalarla a qualcuno. Alessandro, in chiusura ti chiedo intanto la data di chiusura della campagna e poi se ci sono date e avete già fissato delle date pubbliche di presentazione. Guarda, la data di chiusura è esattamente un mese da oggi. Le date, abbiamo fatto una data a Savona, ce ne saranno presto una a Torino e a Pinerolo, una a Corte Emilia il 9 marzo e ne stiamo organizzando una a Roma tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Benissimo. Comunque, se tenete d'occhio la mia pagina Facebook o quella della casa editrice, troverete tutte le informazioni e aggiornamenti. Alessandro, un abbraccio e ci sentiamo poi per gli aggiornamenti.